Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. No, non vorrei mica andare al mare andare al mare domattina? No, domattina no, infatti mi stavo già preoccupando, non perdiamoci perché arriva il fisco per l'estate, cara Deborah, non il disco per l'estate. Ma il telefisco per l'estate. No, adesso l'ho voluta mettere un po' così leggera, diciamo, per la nostra autorevole leggerezza, però l'evento è molto serio. Domani dalle 9 alle 12, obiettivo rilancio, un telefisco speciale. Telefisco, come sanno gli amici che si occupano della materia, è un evento che avviene di solito a fine gennaio, quindi in pieno inverno. Invece questa volta, viste le molte novità ancora poi in divenire, specialmente dal decreto legge rilancio, il decreto legge 34, allora il Sole 24 Ore propone domani un evento di Telefisco, un'edizione speciale di Telefisco. L'edizione può essere seguita gratuitamente, però è necessario registrarsi. Trovate tutte le indicazioni sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Un po' di cose sono anche sul numero di oggi del Sole 24 Ore, dal fondo perduto Molto al bene. Super bonus. Questo è il titolo. Bene. Allora ci si deve registrare, peraltro ci si deve registrare anche per seguire un altro evento di cui vi racconteremo qualche dettaglio fra poco. In realtà abbiamo già dato delle anticipazioni la scorsa settimana. Per quello che riguarda invece il tema portante di quest'oggi, di questo due di denari, di questo lunedì di partenza di questa settimana, parleremo ancora una volta, l'abbiamo già fatto, anzi mi piace sempre ricordarlo Mauro, forse lo ricorderai anche tu, è stato con l'avvio delle misure di contenimento nel nostro paese, forse è stato proprio uno dei primissimi temi che abbiamo affrontato, perché alcuni avvocati, i nostri esperti del Sole 24 Ore, ce l'avevano prontamente segnalato. Stanno già saltando gli accordi economici delle famiglie di separati e quindi si stavano già creando le condizioni di difficoltà per molti papà separati, appunto, di versare con regolarità l'assegno di mantenimento. E questo è un tema molto serio, perché per chi non paga si tratta di un reato penale, quindi vanno ridiscusse le condizioni appunto pattuite inizialmente, se naturalmente non si ha più la possibilità di versare quanto versato in precedenza. E allora i nostri amici avvocati appunto ci hanno chiesto di ritornare sulla questione per dare tutte quelle istruzioni necessarie a quelle persone che si trovano in difficoltà di non peggiorare la loro situazione. Peraltro con i tribunali chiusi, diciamo, la situazione è resa ancora più problematica, no? Perché non si può chiedere ad un giudice di rivedere le condizioni dell'assegno, e quindi bisogna capire come si deve fare per mettersi in una condizione di sicurezza. Ci riferiamo chiaramente alla persona che deve versare e non ce la fa. Per cui a tutte le persone interessate all'argomento comincio già ad anticipare l'800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta, o 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Avremo anche la borsa naturalmente, Mauro, se non certo, mi ricordo male oggi. Assolutamente, si fa, no? Essendo lunedì non si scappa da Meteo Borsa, ma qui sono già pronti dall'altra parte del vetro il fratello nerazzurro, e sottolineo che è nerazzurro. Lancio lungo, occhio Lautaro che può provare a controllare. Ma cioè, pallone passa, colpo di tacco geniale per Lukaku, da questi Eriksen, ancora Lukaku! E l'Inter in vantaggio! Al decimo minuto certo. Di gioco. Niente, volevamo messo in ginocchio per George Floyd, ma dai. Volevamo segnalare anche questo aspetto. Dicevo, il fratello nerazzurro Danilo Di Trani è già pronto per seguirci. Naturalmente il fratello irrinunciabile Marco Lombardo lo governa da remoto, e c'è il fratello non nerazzurro, ohimè, Peter Bescapè, che governa tutto con la sua regia. Allora, vogliamo andare subito con il Meteo Borsa, magari, Deborah? Molto volentieri, molto volentieri. Meteo Borsa. Allora, intanto ti dico quello che succede stamattina. Tu pensa che gli indici europei, Mauro, avevano cominciato la seduta con un calo di oltre un punto. Diciamo che su Milano, dove c'è lo stacco del dividendo per alcuni big, ce lo potevamo anche aspettare. Nel giro di un'ora e mezza è cambiato tutto, adesso sono tutti in positivo gli indici continentali. Abbiamo in risalita Francoforte dello 0,20%, Londra più 0,10%, Parigi più 0,29%, Milano più 0,13%. Peraltro oggi Milano vede anche un rimpasto nel paniere perché escono Ferragamo e Biperbanca, sembra proprio anche questa una partita di calcio, ed entrano Inuit ed Interpump. Peraltro Interpump ha fatto molto bene, molto contenta di questo esordio, più 6% a Milano. I temi sono tanti, sono sempre però legati chiaramente al numero dei contagi a livello mondiale, che ieri mi pare abbia stabilito un nuovo record. C'è purtroppo molta preoccupazione per alcune aree del mondo, il Sud America, gli Stati Uniti, e per quello che riguarda invece l'Europa c'è molta preoccupazione per la Germania, da dove arrivano tante notizie che hanno tutta l'intenzione, a quanto pare, di condizionare un po' nei prossimi giorni l'operato degli operatori. Ma questo non lo dico io, in realtà ce lo vorrebbe spiegare il nostro ospite di questa mattina. Vuoi fare tu gli onori di casa, visto che sei lì? È un piacere, perché diamo il bentornato a Luca Tobagi, Luca Tobagi Investment Strategist di Invesco. Bentornato a Due Denari per il nostro Meteo Borsa, dottor Tobagi. Grazie, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie per l'invito. Allora, perché dobbiamo tanto guardare, esatto, in Germania? Esatto, mi stavo chiedendo questa cosa qui. Che c'entra la Germania? Che abbiamo a che spartire in questo momento con la Germania, dottor Tobagi? Beh, ci sono tante cose che stanno succedendo in Germania in questi ultimi giorni e che la mettono al centro dell'attenzione. Cominciamo da due cose, due o tre cose potenzialmente negative. Abbiamo una possibile frode contabile che riguarda Wirecard, la società di fintech che doveva essere il campione nazionale per questo tipo di tecnologia. È tutto ancora da dimostrare e da valutare, però chiaramente si è trattato di un caso imbarazzante. Abbiamo per la vigilanza tedesca in particolar modo, che pare abbia, adesso non lo dico io ma ho letto qualche cosa nel weekend, addirittura insabbiato, insomma, questo bilancio di questa società non proprio chiaro, esatto, e trasparente. Quindi, e veritiero, insomma, esatto. È tutta una vicenda da seguire, no? E quindi attira l'attenzione. Poi sempre sul fronte diciamo delle notizie più legate alla borsa, abbiamo Lufthansa che comunica che i soci non hanno trovato un accordo sulla ricapitalizzazione della società, e quindi questo sappiamo che è un tema annoso per un sacco di paesi, quello delle linee aeree colpite duramente dalla pandemia. Per quanto riguarda la pandemia, l'ultima notizia, diciamo così, di carattere negativo legata alla Germania è che chiaramente abbiamo avuto una recrudescenza con un focolaio importante che si è trovato in un mattatoio. Quindi da questo punto di vista queste sono tre vicende che andranno seguite. E poi ci sono altre due vicende che secondo me sono più importanti ancora, che potenzialmente possono essere invece positive per i mercati, che vanno seguite con almeno altrettanta attenzione. Cioè abbiamo tutte le dichiarazioni che Angela Merkel ha fatto dalla metà della scorsa settimana sulla stampa locale e internazionale per quanto riguarda la sua volontà di essere un motore per concludere un accordo importante sul piano di rinascita europeo, che lo vogliamo chiamare Next Generation EU, European Recovery Initiative, che adesso il nome sarà l'ultimo dettaglio. Però chiaramente la Merkel ha fatto sapere a tutto il mondo che la Germania ha bisogno dell'Europa quanto l'Europa della Germania. B, è il momento della solidarietà e di un'azione decisa adesso, non fra qualche mese. C, sappiamo che il 1° di luglio comincia quello che verosimilmente sarà il suo ultimo semestre di presidenza dell'Unione Europea, e non sappiamo se l'obiettivo di concludere un accordo entro luglio sarà troppo ambizioso o meno, ma è verosimile pensare che voglia spendere tutta la sua forza in campo per riuscire a concludere un accordo da lasciare in eredità ai posteri, politicamente parlando, entro il suo semestre di presidenza. Questo sappiamo che è molto importante. E l'altra notizia importante che riguarda la Germania è che risulterebbe che la Banca Centrale Europea si sia messa al lavoro seriamente per produrre dinanzi alla Corte Costituzionale tedesca tutta la documentazione richiesta ai tempi, no, del 5 maggio per dimostrare che il piano di acquisti di titoli di Stato condotto dalla Banca Centrale Europea, il PSPP, era assolutamente legittimo e ben analizzato. Quello di Mario Draghi, però ecco, va ricordato, diciamo, quello precedente, non quello attualmente. Quello di Mario Draghi, no, no, esatto. Il PPP, quello legato all'emergenza pandemica, è al di fuori di questa indagine e può procedere in maniera assolutamente libera, almeno per il momento. Quindi, e queste due ultime sono due buone notizie. Se venissero portate a compimento, che sicuramente potrebbero togliere un po' di nuvole dal cielo dei mercati, anche dell'economia reale europea, insomma, quindi sarebbero molto importanti. Quindi la Germania è al centro dell'attenzione da questa settimana in avanti, direi. Ci sono tante vicende che partono da lì. Beh, allora, visto che abbiamo parlato della Germania, si è celebrato da poco l'anniversario per Italia-Germania 4-3, io vorrei riportare il discorso sull'Italia. Oggi non so perché sono molto calcistico, Deborah, non so come mai. Ma voglio dire invece una cosa che c'entra con quello che ci sta spiegando Luca Tobagi, molto cortesemente, ed è il BTP Futura, perché venerdì abbiamo avuto un po' di particolari, la durata di questo BTP e altro ancora. Questo è un titolo di Stato che per la prima volta è al 100%, cioè totalmente dedicato al piccolo risparmiatore, al retail per dirla più correttamente, cioè ai risparmiatori, io dico ogni tanto qualsiasi, poi sappiamo che avrà un premio fedeltà eccetera eccetera, ma io vorrei capire con il dottor Tobagi come vede questa operazione, che ovviamente è tutta indirizzata a raccogliere fondi, risorse per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Allora, si potrebbero dire tantissime cose, noi cercheremo di essere brevi. Intanto questo BTP Futura segue il grande successo del BTP Italia legato all'inflazione collocato in maggio, e quindi è stato, se così possiamo definirlo, il grande ritorno del piccolo risparmiatore italiano. È stato caldamente invitato con questa idea del patriottismo finanziario a contribuire a finanziare l'emergenza della pandemia, ed è stato anche coccolato con dei rendimenti che nel caso del BTP quinquennale di maggio erano estremamente generosi rispetto alle condizioni di mercato, tant'è vero che c'è anche qualcuno che ha sottoscritto in emissione il titolo e ha già, almeno sulla carta, dei guadagni abbastanza corposi quando c'è stato poi il quasi immediato riallineamento dei valori di mercato. Quindi il BTP Futura si inserisce in questa scia positiva, e onestamente bisognerà anche vedere come si comporterà il tesoro dal punto di vista delle condizioni di emissione. Noi non sappiamo, un dettaglio che non conosciamo ma che è importante, che non sappiamo ancora il rendimento, lo conosceremo il 3 di luglio, e quindi effettivamente bisognerà capire se ancora si vorrà mantenere questo doppio binario per cui il risparmiatore domestico viene un pochino più coccolato rispetto magari al mercato aperto, no, dove possono intervenire di più anche gli investitori internazionali. Questo sarà importante perché chiaramente va bene invitare i risparmiatori domestici a sottoscrivere BTP, ma l'Italia continua ad avere un grande bisogno dell'accesso al mercato globale, quindi non si può esagerare con due pesi e due misure, no? Però siamo reduci da un grande successo, e questo, di questo siamo tutti contenti. E poi c'è una seconda considerazione che a me sta particolarmente a cuore, più innanzitutto come cittadino più che come professionista degli investimenti, è che l'Italia comunque deve lavorare su un doppio binario, che non è solo quello investitori stranieri, investitori italiani, ma è quello della gestione della finanza pubblica e della gestione della politica fiscale, nel senso che va benissimo invitare al patriottismo finanziario i nostri risparmiatori, però noi non possiamo nemmeno esimerci dal ricordare che se l'Italia ha un debito pubblico molto alto è anche perché non sempre c'è altrettanto patriottismo, diciamo così, dal lato tributario, no? Quindi ci sono molte dimenticanze, diciamo spesso noi, dottor Tobagi. Quindi, secondo me questa occasione del successo del BTP Italia di maggio e del collocamento di questo BTP Futura e comunque in generale un cambio di atteggiamento anche da parte di molti paesi europei su tante cose a causa dello sfortunato evento della pandemia, no? Se noi volessimo cercare di trarre il meglio da questa opportunità, potrebbe anche essere un ripensamento della gestione della fiscalità, del contrasto all'evasione. Si parla tanto di fisco amico, che secondo me è un'espressione un po' discutibile, cioè cerchiamo di rendere il fisco più trasparente, semplice e efficiente in modo da migliorare anche il rapporto che il contribuente ha con l'amministrazione fiscale e magari riuscire a di gestire in un ambito di maggiore rispetto, no, reciproco, tutte queste cose, e secondo me anche la finanza pubblica italiana ne trarrebbe un grosso beneficio. Quindi questo speriamo che sia un'occasione perché anche questo meccanismo virtuoso si possa innescare, non solo la raccolta di tanti fondi. Grazie a Luca Tobagi. Possiamo, Mauro, ritagliare un brano di questo intervento di Luca Tobagi e lunedì girarlo direttamente a Davide Iacovoni, capo debito pubblico del Ministero dell'Economia, perché lunedì prossimo e il successivo ancora faremo ancora una volta due trasmissioni speciali su questa emissione speciale del Tesoro e quindi magari, perché no, potremmo anche allargare un po' il tiro delle nostre riflessioni oltre alla spiegazione delle caratteristiche tecniche di questa operazione, che sono sempre molto interessanti per i nostri risparmiatori. Peraltro in molti ci stanno già scrivendo chiedendoci qualche aspetto particolare. Abbiate pazienza fino a lunedì e vi diremo tutto, ma magari potremmo anche, che ne dici, riportare un po' questo, dottor Iacovoni, e quello che dice la comunità finanziaria, quello che pensa rispetto a questa operazione. Ma non solo, io riporterei poi anche all'amico dell'agenzia, agli amici dell'Agenzia delle Entrate, il fatto che il fisco amico, forse fisco domani. Equo va bene, ecco, magari domani ne parliamo, ecco. A Telefisco, quello lì sì, Telefisco. Fisco amico. Allora andiamo col giornale radio del risparmio adesso. Drin drin, edicola risparmio. Deborah, hai già capito che oggi il Sole 24 Ore in edicola è un numero da collezione. No. Certo. So che lo dico, ma lo c'è dico più volte. Poi dove scambiarseli, insomma, se uno è più da collezione di un altro, non lo so, ma c'è, guarda, anche un mercato nero dei numeri da collezione del Sole. Questa è un'ottima annata, ma no, verrebbe da dire un'ottima annata, perché purtroppo ci sono tante cose da approfondire e spesso, come sai, il Sole 24 Ore del lunedì, che è poi quello che può ospitare più inchieste, più approfondimenti, le va ad approfondire. Ci sono stati tanti cambiamenti nelle nostre vite e quindi anche nelle norme, nelle abitudini e quant'altro, e questo viene poi analizzato spesso sul Sole 24 Ore, oltre che a Radio 24 e specialmente a Due di Denari. Tra l'altro oggi condominio, il virus cambia la vita in condominio, nuove regole e abitudini, e certo, perché pagina 5 del Sole di oggi, una panoramica sulle nuove prassi, che come bisogna fare se c'è un inquilino che si è contagiato. Come si fa per fare l'assemblea in presenza o fare l'assemblea da remoto? Quante volte fare gli interventi di sanificazione? Che si fa con le spese? E quanto costeranno in più? Ma tra l'altro, esatto, ancora non ci sono arrivate le spese, come dire, del trimestre pandemico, chiamiamolo un po' così. E chissà se effettivamente ci sarà qualche voce un po' alterata, in senso ovviamente peggiorativo, per il fatto che chiaramente bisogna pulire continuamente, sanificare con grande attenzione gli ambienti, e probabilmente avremmo dovuto spendere anche qualche cosina in più. Magari non saranno delle spese super rilevanti, però sarà interessante appunto monitorarle e magari ci torneremo su questo tema. Tanto io intanto sono spese che vanno fatte. Ti dico, esatto, che non ci sono in vigore disposizioni di sorta che consentano di procrastinare il pagamento delle spese condominiali, quindi insomma, bisogna no. pagarle, ecco, volevo dire così molto semplicemente. Esatto. Deborah. Allora, volevo di nuovo segnalare ai nostri ascoltatori, tra l'altro oggi c'è una super pagina sul Sole 24 Ore con le nostre belle facce, la mia e la tua, caro Mauro, in cui appunto il quotidiano evidenzia questo evento di cui saremo conduttori. Martedì prossimo, 30 giugno, il Digital Roundtable Investire Informati, o la Digital Roundtable, perché è una tavola rotonda ma in formato digitale. Noi saremo qui al Sole 24 Ore. con alcuni esperti dei grandi casi di investimento, appunto tutte quelle personalità che generalmente si avvicendano ad Investire in Formati del giovedì, faremo un punto finale della situazione per commentare un po' tutto quello che è successo in questi mesi dal punto di vista dei mercati, ma anche dal punto di vista dell'approccio del risparmiatore a questi mercati così particolari, perché abbiamo appunto raccontato prima anche con Luca Tubagi che tutto sommato, nonostante i fattori di nervosismo non manchino, le borse stanno andando ancora piuttosto bene e bisognerà anche maneggiarle con cautela, per cui sarà un momento di confronto molto interessante che tutti gli ascoltatori che ci sentono la mattina a Due di Denari in realtà potranno seguire in streaming. Per iscriversi e partecipare online dovete semplicemente andare sul sito di Radio 24, alla sezione iniziative speciali, vedrete la bel cartellone appunto dell'iniziativa e quindi tutte le istruzioni anche per seguirci martedì prossimo. Guarda, io ho mostrato per chi ci segue sul Facebook e gli altri canali video, ho mostrato la pagina appunto, la pagina 30 del Sole 24 Ore di oggi, con quelle che tu hai detto, le nostre belle facce, insomma direi la tua, la mia, ho fatto quello che potevo. E allora adesso toccherà a Peter Bescapè fare quello che può per lanciare il nostro Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Questi bonus sono tutte bugie, bugie come il 110%, perché finché non aprono i decreti attuativi se ne parlerà, se li aprono, fra mesi, tutte buffonate. Ma dici, Mauro? Allora, io dico che, come ha ricordato Cristiano Dell'Oste proprio in questi giorni, bisogna evitare di, come dire, sia alimentare delle convinzioni poco corrette, sia essere eccessivamente critici. Allora, guardiamo dentro un attimo questo super bonus, solo un secondo, Deborah, poi andiamo ai mercati. Allora, il super bonus è stabilito che sarà operativo dal 1° di luglio. D'altra parte è legato a un decreto legge, quindi il decreto legge è in corso di discussione in Parlamento, quindi il Parlamento potrebbe modificarne alcune cose, potrebbe anche estenderlo, come sappiamo. Lo stesso Ministero dell'Economia ha detto: attendiamo la conversione del decreto, ci sono delle indicazioni operative che ancora aspettiamo. Naturalmente uno, essendo già in vigore dal 19 maggio, può già disporre quelle spese. Noi siamo intervenuti con plurime guide, approfondimenti eccetera, sia qui in Radio 24 sia sul Sole 24 Ore. Io consiglierei appunto di attendere per un giudizio complessivo almeno la partenza finale compiuta del super bonus al 1° di luglio. E tutto ciò premesso, mi sembra di avere fatto una sorta di editoriale, cara Deborah, non so come mai. Ti è venuto anche molto bene. Ma mi sono giovato in realtà dell'assistenza dell'ottimo Cristiano Dell'Oste, e così come ora mi gioverò della tua assistenza nel sapere come vanno i mercati finanziari, cioè le borse. I soldi sotto il materasso e Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Caro Mauro, che momenti difficili per molte famiglie, noi proviamo a raccontarli queste situazioni appunto ogni giorno, e dobbiamo ritornare su una questione che avevamo già affrontato, l'ho ricordato spesso, anche all'inizio delle misure di contenimento determinate appunto dal Covid, molte difficoltà per molte famiglie di arrivare alla fine del mese, e una crisi ancora più importante per molte famiglie di separati, perché rispettare l'impegno finanziario mensile dell'assegno di mantenimento per qualche papà in particolar modo, poi ci sono anche delle donne che possono versare l'assegno di mantenimento, ma sono casi molto più rari, per molti papà separati appunto rispettare questo impegno è diventato difficile. Allora noi perché abbiamo voluto sollevarla la questione? Perché non pagare significa commettere un reato penale, e quindi dobbiamo aiutare queste persone a muoversi bene. Se ci si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, è bene manifestarla subito, condividerla con il proprio avvocato e cercare di capire come fare per evitare chiaramente di essere poi ulteriormente trascinati in tribunale, anche se adesso sono ancora tutti chiusi, mi pare, Mauro, peraltro. Abbiamo diversi problemi con, nel rapporto con la giustizia, dovrebbe migliorare il tutto dal 1° di luglio, ma sai chi ce lo spiega per benino? Ce lo spiega Giorgio Vaccaro, che è cassazionista, avvocato, esperto per il Sole 24 Ore, docente su temi di psicologia e diritto di famiglia, nonché autore proprio oggi di un contributo sul Sole 24 Ore, redditi presunti se l'ex coniuge non collabora, cioè non collabora a segnalare i suoi redditi. Allora, bentornato a Due di Denari, in primo luogo all'avvocato Vaccaro, bentornato. Grazie dottor Meazza, grazie, buona giornata a voi. Allora, da dove vogliamo partire? Il funzionamento, o meglio lo stop, il congelamento, il non funzionamento dei tribunali, che già è un problema non da poco se qualcuno ha necessità di porre all'attenzione del giudice la necessità di rivedere l'assegno di mantenimento? Sì, io direi che la Deborah Rosciani ha centrato il problema vero. Fino a ieri, nella nostra vita precedente a questa epidemia, l'argomento della modifica degli assegni dati al coniuge, sia per il mantenimento del coniuge sia per il contributo al mantenimento dei figli, era sempre un argomento estremamente difficile, estremamente delicato, dove tutti cercavano di dare il minimo possibile. Con l'intervento del blocco delle attività successivo alla questione dell'epidemia è diventato emergenziale, ma non è come prima. Cioè, il mancato pagamento in questo momento può creare, anche se incolpevole, la possibilità di commettere, come diceva Deborah Rosciani, un reato. E allora è molto importante in questo momento verificare come prima cosa la stabilità nel tempo di questa contrazione dei flussi di denaro. Noi pensiamo semplicemente a tutta quell'enorme lista di professionalità che nel 3 mesi precedenti e probabilmente fino a dopo l'estate saranno quasi sull'orlo di un fallimento. Tutte le palestre, tutti i ristoratori, tutti quelli che avevano le attività commerciali di vendita completamente chiuse, che non hanno avuto incassi e sono rimasti obbligati, legati all'obbligo di dover versare degli assegni, legati ad un reddito precedente alla situazione del Covid. Quindi in questo momento è molto importante rivolgersi al proprio commercialista e verificare qual è il punto di caduta e qual è l'ipotesi di recupero di quel reddito che può permettere il pagamento di questo assegno, e se questo punto di caduta, e quindi la possibilità di riprendere il pagamento di questo assegno, è molto lontano sotto il profilo economico reddituale, rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per fare l'istanza di modifica, perché non facendola, dopo il passaggio di qualche mese, si è esposti all'azione del coniuge che non riceve del denaro, che può portare l'altro coniuge, anche al penale, alla procura della Repubblica. Certo, considerate che con i tribunali mantenimento... sì. Prego. No, il mancato mantenimento? Dico, il mancato mantenimento dei figli minori è un reato proseguibile d'ufficio. Quindi, al di là del fatto che uno poi dica ho pagato o non ho pagato, la procura va avanti. Quindi si tratta di argomenti che ieri potevano essere, residuali. Oggi sono diventati un'importante fascia di molti imprenditori che, sono conosciuti tutti. Cioè, la ristorazione per 3 mesi non ha potuto svolgere la propria attività. Quegli assegni, magari con un reddito importante, perché immaginiamo titolari di ristoranti di un certo livello, avevano degli assegni legati a quel livello. Sono tutti uguali oggi, messi tutti in fila, e quel tipo di livello nel giro di 4 mesi accumula un ritardo di pagamento che diventa difficile da recuperare. Non so se sono stato chiaro. L'istanza di revisione dell'assegno, avvocato, ci dia la procedura. L'istanza di revisione dell'assegno rientra in quelle fasce consentite nel funzionamento d'emergenza del tribunale. Noi sappiamo che i tribunali, per quanto riguarda, grazie a Dio, le problematiche di diritto di famiglia, hanno mantenuto, anche se con solo per le questioni emergenziali, ovviamente, le porte aperte. E in questo senso l'istanza di mantenimento, l'istanza di modifica al mantenimento per il coniuge e per i figli minori fa parte di quelle istanze d'urgenza legate alla famiglia, dove i tribunali sono aperti, si può depositare, lo dico in maniera molto semplice, si può depositare telematicamente l'istanza. È fondamentale che il cliente che voglia ottenere la modifica porti una relazione che spieghi al giudice qual è la contrazione, in che modo si è realizzata questa contrazione, qual è la previsione nel tempo del recupero, in modo da dare al giudice la possibilità di rendersi conto già a una prima lettura della fondatezza di questa domanda. Tutta la domanda è telematica e il giudice può scegliere se fissare un'udienza con la presenza delle parti oppure fissare un'udienza sempre telematica nella quale scambiarsi le conclusioni delle parti, insomma, quindi dare alla parte che resiste la possibilità di rispondere. Faccio la domanda, se mi permettete, poi magari Mauro, certo, rispondiamo dopo che tu avrai lanciato il traffico. Occorre, è sempre bene seguire la formalità nel senso di presentare questa istanza di revisione dell'assegno, anche se siamo in presenza di ex coniugi che sono in ottimi rapporti e quindi magari abbiamo la ex compagna che comprende perfettamente questa nuova situazione economica, quindi magari non avanza pretese, non manifesta litigiosità, come dire, oltre al danno alla beffa può anche essere il caso che si verifichi. Quindi è sempre bene, avvocato, che si segua una marcia formale molto molto serrata, o qualche volta si può anche lasciar perdere se le condizioni di questa ex famiglia sono tutto sommato serene? Ne parliamo dopo, Mauro? Sì, ne parliamo, e la domanda è articolata, la risposta lo sarà altrettanto, e quindi arriverà dopo il traffico. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. Di denari. Allora, riassumo la domanda. L'avvocato Giorgio Vaccaro ci sta aiutando a capire come comportarsi in questa fase così complicata nel caso degli assegni di mantenimento e anche un po', diciamo, per tutte le ex famiglie. La domanda è: ma dobbiamo comunque preoccuparci di attivare l'avvocato, di fare una verifica sull'andamento dei redditi, eccetera, eccetera, anche se il tasso di litigiosità, per così dire, o la minaccia di interventi giudiziari da parte dell'ex coniuge è ridotto? Anzi, magari c'è molta comprensione da quel punto di vista? Lei cosa consiglia, avvocato? La domanda è molto interessante e la risposta è semplice. Quando manca un assegno perché non si può pagare, per quanto la comprensione del mancato pagamento sia assolutamente condivisibile, diventa poi difficile per la parte che riceve questo assegno riuscire a farcela. È sicuro che la fase della aspetta un po' che ti pago tra un po' esiste e deve essere coltivata senza l'intervento di un avvocato, ma il mio consiglio è: mettete per iscritto questi accordi. Cioè, fate in modo che ci sia un'email di ricognizione, di proposta, del dire: allora li pago a rate, li pago dopo questo mese, e una risposta: sì, va bene, accetto. Perché in mancanza di questa prova scritta, il mancato pagamento concretizza un qualche cosa che è un inadempimento dell'ordine del giudice, e in più è un aver creato una problematica relativa a dei figli minori, se ci sono dei figli minori. Quindi formalizzare anche tra le parti il fatto che ci sia una crisi e un accordo sulla gestione e il recupero della crisi è sicuramente la cosa più importante. Se si sente che la cosa sta sfuggendo di mano, la chiamata all'avvocato di fiducia è la cosa più importante, perché la domanda davanti al giudice necessita di un minimo di approfondimento e quindi della perdita del tempo per poterla costruire in modo che possa reggere, altrimenti è una domanda che viene rigettata. Bisogna davanti al giudice andare solo quando le cose sono effettivamente provate e molto chiare, perché questa forma del tribunale del dato telematico non permette grandi discussioni verbali durante l'udienza, sono le cose scritte, e nelle cose scritte bisogna essere chiari, cioè il giudice deve avere chiara la situazione di una crisi che è incolpevole, perché c'è una situazione di chiusura della ditta, dell'attività professionale, e l'effetto di questa chiusura sull'obbligo e sulla misura dell'obbligo nei confronti della parte che richiede la modifica. Avvocato Vaccaro, le è mai capitato, almeno nella sua esperienza recente, di arrivare anche ad una decisione di un tribunale di annullare, sospendere temporaneamente l'erogazione dell'assegno, oppure si passa sempre attraverso una rimodulazione, una riduzione? Ma ci sono casi sempre, anche particolarmente seri? Certo, si passa sempre verso una rimodulazione. È evidente che questa situazione è una situazione dove le pronunce arriveranno alla fine di luglio e i primi di settembre, nel senso che la situazione messa in campo dalla emergenza legata alla pandemia sta muovendo il meccanismo del Tribunale a prendere le prime pronunce in questi termini. Le istanze sono tante, nella realtà la modifica della possibilità di poter pagare l'assegno è una casistica estremamente diffusa ed è molto importante vedere come i tribunali reagiranno. È evidente che le situazioni reddituali che permettevano il pagamento degli assegni, anche di misure importanti precedenti alla crisi, io ripeto, immagino tutti gli imprenditori della ristorazione, tutti gli imprenditori che avevano le palestre. Stiamo parlando di persone, tra virgolette, sufficientemente benestanti che improvvisamente hanno visto il loro reddito ridotto a zero, con la possibilità di ricominciare dopo l'estate. Quindi, rispetto al dato della famiglia… E poi bisogna vedere in che modo. Certo. Brava, esattamente. In che modo è quello che sarà la decisione del giudice. Ma sicuramente c'è un incepparsi del meccanismo che solo portandolo davanti al giudice permetterà dopo l'estate di avere una misura sostenibile, altrimenti rimane quella, questo è il problema. E per questo modificare che... questa misura dicendo al giudice attenzione c'è un'emergenza, è successo qualcosa, è un dato di chiarezza rispetto ai propri obblighi. Far finta che non sia successo niente poteva essere una cosa valida prima, oggi c'è tutte le palestre chiuse non hanno incassato, non potendo incassare come faccio a pagare l'assegno? Posso pagare i primi due mesi perché ho dei risparmi, ma poi intacco anche quelli. E ricordo, non si paga l'assegno sui risparmi, si paga l'assegno sul reddito. Sono due cose completamente diverse. Certo. Gli assegni per l'ex moglie, diciamo così, o per il coniuge più debole e i figli minori sono legati alla mia produzione del reddito. Se il mio reddito si è congelato perché sono sbarcati gli alieni, quindi una cosa straordinaria, e qualcuno deve metterci mano, perché a ottobre come farò a riprendere quella misura? È successo qualcosa di estremamente complicato, estremamente diverso da prima, che il Tribunale dovrà in qualche modo analizzare. Ed è per questo che bisogna produrre, come ci consigliava già prima lei, Avvocato Vaccaro, produrre una posizione, una memoria, non saprei come definirla, insomma, il più possibile puntuale per indicare avevo questo tipo di reddito, lavoro in questo settore, non ho potuto lavorare, non ho potuto percepire alcun reddito o comunque ho avuto un reddito fortemente ridotto. Naturalmente non vorremmo che poi con l'andare del tempo si aggiungessero anche altri settori e anche il lavoro dipendente per quanto riguarda la riduzione dei posti di lavoro, ma insomma anche queste sono prospettive che, per quanto sciagurate, dovremo considerare se ci troviamo nelle situazioni che stiamo analizzando ora. Abbiamo un paio di minuti ancora, Avvocato Vaccaro. Volevo chiederle, ma tutti i tribunali si comportano allo stesso modo per la produzione di queste memorie o bisogna tenere in conto modalità diverse e tempi diversi? Allora, diciamo che la produzione della domanda delle istanze è per tutti i tribunali con un'istanza telematica. Sicuramente il dato della formulazione di questa domanda di revisione vuole al massimo la serietà di questa domanda. Cioè non è una domanda, c'è successo qualche cosa, c'è il Covid, riducetemi l'assegno, perché quelle sono le domande che non vengono accettate. Quindi, siccome è una cosa delicata, stiamo parlando di diritti assolutamente, si chiamano indisponibili, cioè l'obbligo di contribuire al mantenimento e al contributo dei figli è un obbligo tutelato dalla norma anche sotto il profilo penale, quindi è un obbligo al quale non ci si può sottrarre. Se si deve ridurre, ci deve essere serietà. E quindi per poter formulare questa istanza bisogna farla accompagnare, come diceva lei, dottor Meazza, bene, da una relazione di un tecnico che dica questi erano gli incassi a gennaio 2020, questo è l'attività ricompresa in quelle completamente bloccate, questi sono i flussi di denaro del primo trimestre sul conto corrente, è successo qualcosa, il giudice provveda. E il giudice normalmente, diciamo, in questo periodo provvede telematicamente. Questo... E il giudice provvede telematicamente fissando un termine per la comunicazione di questa istanza alla controparte e fissando anche un termine alla controparte, quindi al coniuge che aspetta questo assegno, per produrre delle controdichiarazioni. Quindi per produrre quelle memorie difensive che si contrappongano alle richieste fatte dal coniuge obbligato. Quindi diciamo che i giudici non è che stabiliscano in automatico la riduzione dell'assegno, ma no, comunque no, un minimo no, di... Sicuramente il diritto quindi, di difesa deve essere assicurato e quindi certo. la data nella quale depositare le memorie di replica è sicuramente consentita. Diciamo che certo. Questo è un qualche cosa già visto, perché in questi 3 mesi di chiusura le attività o di udienza che ho fatto sono sempre state punteggiate dalla giudice che fissa un termine per la sua decisione con un termine precedente ad entrambe le parti per memorie illustrative, che sono poi di poter criticare quello che è la domanda, insomma, ecco. Quindi viene grazie. Assicurato il diritto di replica e la difesa anche alla parte rispetto alla quale si chiede la modifica. Grazie avvocato Giorgio Vaccaro, cassazionista, esperto del Sole 24 Ore. Cara Debora, noi torniamo.